Mi cominciamo subito. Come consiglia di combattere i disagi legati alle variazioni del tempo? Ma io penso che si possa, ecco, diciamo, dare la possibilità al tempo di cambiare, insomma, perché quando cambia il tempo ci abbiamo le nostre palle girate, basta, cose. Basta così. Allora gli epididimi si storgono, convergono verso il centro, sotto la zona intercoscia. Basta, ha detto basta, no. Se sono previsto, sono dei tempi da rispettare. Prego, sì. Diego. Se sono previste variazioni meteorologiche importanti, che cosa consiglia di fare? Ma io penso che un buon rimedio sia starsene a casa propria, ecco. Basta, grazie. Bene, grazie mille. Vai pure, Diego, con l'altra domanda. Tuttavia, come non sempre è possibile rinviare gli impegni già presi, che cosa consiglia di fare in questi casi? Ma, scusate, se invece di prendervi impegni andate a prendervi qualcos'altro, per esempio pigliatevela ne... Ma allora, benissimo, questa domanda è stata molto molto... Come? Le devo fare il disegnino, eh? Scusi. Ma quali rimedi naturali aiutano a sopportare meglio le variazioni del tempo? Ma certo, rimedi naturali. Io consiglio a tutti di bere tanto vino, perché il vino fa buon sangue e il vino fa passare tutti quei problemi che sono legati appunto a tutte quelle cose che riguardano il problema legato al meteorismo, soprattutto se dopo meteorismo avete bevuto che è problema che hanno le persone quando hanno tanto da scureggiare, allora, e soprattutto passa qualsiasi male se prendono la macchina dopo aver bevuto. Esatto, lì passano tutti i mali, lì proprio non ce n'è più, nel senso che uno schiatta e poi Ci sono altre domande, Diego, da dare al nostro professor Ventis questa sera, che è stato molto gentile, è venuto qui in radio appunto per darci appunto questi grandi aiuti, grandi grazie per l'enorme ma sfiguratevi enorme e prezioso contributo ma da parte sua. Non c'è problema, adesso mi pagate, mi dovete dare i soldi, perché abbassa il volume, per cortesia abbassa il volume, abbassa il volume, l'abbiamo ringraziata, se ne vada, grazie. Right upon his land, he said the travesty is the future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Sky, I crawl. Under the sky, I die for you. Bonsoir et bienvenue à la nouvelle émission de Radio Saint-Donat et nous sommes ensemble de Diego, de Frégo et de Denis. Bonsoir. Bonsoir tous les membres. Bonjour, bonsoir tous les membres. Bonjour. Notizia dell'ultima ora. I vigili del fuoco avevano risposto a una chiamata ed erano accorsi a spegnere un incendio. Dallas, un gruppo di pompieri di Lancaster, un sobborgo di Dallas, tornando da un'uscita hanno trovato la caserma in fiamme. Come una cosa. Vabbè, per spegnere l'incendio è stato necessario l'aiuto di colleghi chiamati da altre stazioni. Hanno chiamato i vigili. Cioè, immaginate questi i pompieri che arrivano in caserma, chiamate i pompieri. Che sarà cosa? Fuoco! Aiuto! Al fuoco, chiamati i pompieri. Insomma, i danni, stimati intorno ai $125,000, hanno colpito soprattutto la cucina e la sala da pranzo. Infatti, gli incauti pompieri texani avevano risposto a una chiamata ed erano accorsi a spegnere un incendio, dimenticandosi però una pentola di patate a bollire sui fornelli. Ebbene sì, ebbene sì. Questi stavano facendo la pentola di patate. Vabbè, poveri. Allora, che facciamo? Stavano facendo le patane. Facendo mamma da state zitto dai dai ciao state zitto va ma abbiamo io come facci tu sai tu al microfono, puoi cantare così vicino, ho capito che sei di quella terra lì, ma no, non puoi essere... Abbassi i microfoni. Bene, stasera siamo in compagnia di Renzo Arbore, fresco di una nuova storia. C'è venuto Arbore. Abbiamo Arbore, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Ciao Renzo. Dunque, che c'ha da dire? Renzo, buonasera a tutti quanti da Renzo Arbore e dalla mia Renzo. Buonasera a tutti dalla mia grande orchestra italiana. Come sta? Tutto bene? Ma guardate, l'orchestra sta bene, stanno tutti là ad accordare gli strumenti, è tutto a posto. Ma che onore qui, amici di Radio Saint-Donat, avere un ospite così importante questa sera, appunto come un calibro internazionale come Renzo Arbore, che è stato in tutto il mondo a cantare appunto le canzoni della terra madre di esatto, Diego. Esatto, abbiamo fatto il giro del mondo per portare a tutti quanti naturalmente la grande allegria partenopea napoletana. La musica napoletana. Dobbiamo ringraziarlo perché comunque ha creato questa grande sorpresa a Diego, e allora eccolo qui, infatti, è venuto fuori grazie a lui. Naturalmente un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Saint-Donat, perché tutti quanti insomma io tenevo una domanda. Signor, mi dica pure, io sono qua apposta perché dato che lei è fresco di una nuova storia, no? Sono appena uscito dallo frigo e siccome lei è un terrone come me, io volevo sapere più o meno insomma Chiedo, mi dica, come può rinascere un amore a distanza di così tanto tempo? Ma io penso che si possa fare rinascere l'amore con soprattutto con la musica, partenopea, perché la musica partenopea è amore, è affetto, è allegria, è tutto cosa, è tutto qua. Ma soprattutto con la grande orchestra italiana, italiana. Mi scusi, signor Terrone, volevo dire una cosa. Sempre come ma me, sbaglio no? A Terrone pure lei. No, perché lei mi chiama Terrone, però Terrone, capito? Mi sento a casa. Va buona. E allora volevo sapere, ma siccome questa qua è una storia rinata dall'81 addirittura, mi pare dall'81. Infatti non dica la mia età, perché altrimenti mi vergogno un po', perché mi vergogno perché sono vecchio. Allora, ma quando è successo? Che è successo cosa? L'incontro con la sua femmina. Ma non mi ricordo, perché io sono tanto vecchio e ormai alla mia età, alla mia veneganda età, e tutte le cellule cerebrali vanno a farsi benedire, come si suol dire. Allora, non potevo dire che se ne vanno a fa perché non si può dire. Siamo in radio, quindi, purtroppo. Ma lei cosa dice dopo dall'81 a oggi? Ma le tira ancora? Ma io dico la grande orchestra italiana! È lei che tira! È lei che attira un sacco di pubblico! Ringraziamo Renzo per averci dato questo tutti, momento. Grazie soprattutto per aver fatto questa sorpresa a Diego. Un grandissimo applauso e un arrivederci allora. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie alla grande orchestra italiana. Bellissimo questo brano tratto dalla colonna sonora del favoloso mondo di Amélie, bellissimo film francese, dedicato naturalmente al mio grandissimo amore. Sì, perché siamo dei fan di Amélie, siamo stati anche a Parigi dove è stata girato, appunto. Qui scopriamo gli altarini. Dedichiamo a Martina questo il lato tenerone. Dedichiamo a Martina. Allora lasciamola di sottofondo, dai. Sì, no, vabbè, dai, dovevo farlo. Sto diventando tutto rosso, No. Scusate, ma sono un poco emozionato. Sì, comunque una dedica veramente con il cuore, perché questo brano è bellissimo, è veramente bello. Benissimo, noi siamo DFD Team, avete sentito DFD Team, avete ascoltato il bellissimo programma, non è ancora finita naturalmente, avete ascoltato intanto una parte. Questo è 360 l'informazione divertita, e Radio Sandona 102200 0421 560993 e www.radiosandona.it per ascoltarci in web radio. When the work's all done and the sun set low, pull out the fiddle and you're rousing up the bow. Kids are all asleep, so I keep the cattle low. And thank God I'm a country boy. I'd play a solid gooden all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should. And thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, but a riddle. Thank God I'm a country boy. Woo-hoo! Arrivano i DFD. Well, I wouldn't trade my life for diamonds or jewels. I never was one of them money hungry fools. Rather have my fiddle than my farm and tools. Thank God I'm a country boy. Yeah, city folks driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's a mighty keen. So let me tell you now exactly what I mean. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me a fiddle. The sun's coming up, I got cakes on the fiddle. I've been nothing but a fun about a riddle. Thank God I'm a country boy. Woo! Yeah! Yeah! he died, took me by the hand and close to his side. Said, live a good life, play my fiddle with pride, and thank God you're a country boy. Well, my daddy taught me young how to hunt and how to whittle, taught me how to work and play a tune on the fiddle. Taught me how to love and how to give just a little. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, but the sun's coming up, I got cakes on the riddle. Life ain't nothing but a funny little riddle. I'm a country boy. Indica, male sta cosa. SMS. Dunque, per gli SMS 348 348 41 62 62 771 771. Ok. Team, i Bad Boys di 360, i ragazzi cattivi di Radio Sanona. Bentornati a DFD 360, l'informazione divertita. Mi sembra di essere ancora Luciano Ligabue. Di essere ancora lui. Certo, noti, macchina calda. Bene, bene ragazzi, bene, bentornati a DFD 360, l'informazione divertita. Noi siamo il DFD Team, Frego, Diego e Dennis, siamo sempre noi, sempre noi i vostri Bad Boys, naturalmente. Che branco di pazzi. Comunque, signori ascoltatori, questa sera il consueto appuntamento con i telefilm degli anni 80. Questa sera parliamo di... One drum, what might be right for you may not be right for some. Avete indovinato di chi si tratta, di che telefilm si tratta? Si tratta del nostro amico. Scusa Dennis, naturalmente Dennis ci teneva a parlare di questo personaggio per solidarietà nell'altezza. Infatti stiamo parlando del telefilm Il nostro amico Arnold. Da precisare naturalmente che anche il colore è uguale. Sì, siamo uguali. Non sì, perché no. Perché è sporco, Dennis io è sporco. Io personalmente Dennis è sporco, io non. Esatto. Arnold, no. Arnold era pulito, invece Dennis automaticamente sporco. Stesso colore, perché sì, sì, sì. Non mi lavo, ragazzi. Ultimamente si è un po' schiarito dato la pioggia e un po' gli effetti meteorologici. Ha piovuto. Cos'era così? Bellissima. Parliamo di Arnold, ve lo ricorderete sicuramente, ha fatto un sacco di successo e negli Stati Uniti e nell'Europa e soprattutto in Italia. Naturalmente stiamo parlando di Arnold, la storia di questo, di questa famiglia, naturalmente come si dice, famiglia allargata, come si dice, sì, in era Francia, una delle prime famiglie che insomma avevano un po' di allargamenti, no? Esatto, praticamente il mitico Philip Drummond, chi non si ricorda il mitico Philip Drummond con quella faccia lì, sembrava un cane di quelli, non mi ricordo. Tra l'altro identico a un mio professore di quando andavo a scuola, non lo so, quando provavo, è un dettaglio importantissimo, no? Ma veramente voi dove dovevate vedere? Ma no, mi hai cambiato la vita, ma veramente voi dovevate vedere quanto identico era Philip Drummond. Infatti i miei compagni chiamano, che è arrivato Philip Drummond, dov'è Arnold? Sì, domani andiamo tutti a vedere il tuo professore. Il mio professore ti chiederà un autografo. Salve, naturalmente un saluto, un calorosissimo saluto al professor Philip Drummond. Ciao Philip, ciao Drummond, ciao Bidigo, mi ricordo di te, ciao Bidigo, ciao grande, babà. Naturalmente insomma parliamo di questa di questo uomo d'affari Philip Drummond, che ha adottato i bambini, aveva già una figlia Willis e il piccolo Arnold. Vi ricorderete soprattutto la mitica frase che Arnold diceva al fratello: che cosa stai dicendo Willis? Più precisamente, che cavolo stai dicendo Willis? Che cavolo stai dicendo Willis? Esattamente proprio come l'ha detto il nostro amico Frego. Naturalmente un grandissimo grazie al nostro amico Frego, la regia la tiene lui, e quindi grazie Frego. Sono emozionato. Grazie, prego. Ma che fine hanno fatto i personaggi? Meglio non dirlo, perché qua sono mezzi, sono morti, quindi meglio neanche dire. Comunque l'unico che sta bene è il signor Philip Drummond, che ha 82 anni e vive con la moglie a Los Angeles. È il più vecchio? Sì, il capofamiglia è l'unico che sta bene, perché ha portato sfiga a tutti questo. Sicuramente avrete sentito, cari ascoltatori, saluto naturalmente al mitico Mike. Ciao Mike. Che era già vecchio allora. Adesso ho 82 anni, il tempo è passato relativamente per il lui, vecchio li ha visti morire tutti. Esatto, una cosa paradossale. Comunque Gary Coleman, l'interprete appunto di Arnold, combatte fin dalla nascita con una disfunzione del sistema immunitario che ha colpito i reni, poverino, e quindi a causa anche del fatto che a 36 anni è ancora alto 1,40 m, proprio come me. Come esatto, te, sì. È uguale. Sto cercando di fare dell'autoironia. Sì. No, perché alla fine è vero. È realtà. Ecco, e pensate che addirittura si è candidato come governatore della California. Ma tu l'ha battuto Schwarzenegger, perché gli ha detto: tu essere piccolo. ma tu che disfunzioni hai? Io? No, io sono solo presente in natura. Sono un errore della natura. È un microfono ed è appunto parte di questo radio. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. bene, è arrivato il... Insomma, è arrivato per stasera, anche per stasera, il momento delle ricette. La nonna Fregolina stasera ci presenterà i spaghettoni al pollo. Intanto vada, signora, vada. Voglio ringraziare tutti quanti perché mi avete dato l'occasione anche quest'oggi di dare l'appuntamento ai nostri amici a casa, di creare delle graziosine ricette appunto per dargli ai vostri maritini e ai vostri grandi bravi ragazzi. Allora la ricetta di questa sera è spaghettini al pollo, spaghettoni perché sono un po' più grandi, al pollo. Ingredienti per 4 persone: spaghettoni 300 grammi, pollo 600 grammi, pomodorini 300 grammi, 2 spicchi d'aglio. Sì, ma povera. L'aglio mi viene su poi. Un bicchiere di vino bianco, basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Mi raccomando, scrivete, ascoltatori, scrivete, scrivete, scrivete, perché le ricette di nonna Fregolina sono mitiche, mitiche. Allora, vi leggo com'è un attimo e vi introduco com'è un attimo la preparazione. Madonna. Lavate e tagliate i pomodorini a metà. Tagliate il pollo a pezzetti. Mamma dopo aver eliminato la pelle. Dobbiamo eliminarla questa. Non la faccio più. In una padella con l'olio soffriggete l'aglio, aggiungete il pollo, rosolatelo, unite i pomodorini, bagnate con il vino bianco, salate, pepate e portate a termine la cottura. Cuocete gli spaghettoni in acqua salata, scolateli e amalgamateli per il sugo di pollo e i pomodorini preparato. Grazie, buonissimo questo piatto. Grazie. Grazie, buonissimo. Grazie, sicuramente grazie. Sarà un piatto estremamente buono. Grazie, grazie di cuore alla nonna Fregolina. Grazie, grazie, grazie a voi ragazzi. Grazie. Grazie. Quanti, scusi, nonna Fregolina, vorrei, quanti anni ha signora nonna Fregolina? Io ne ho 33. Ammazza, te li porta veramente male. Vedi quelle bombe, sono già nonna da 32 anni. Che precoce, direi. Sì. La chiameremo Mururoa. Ci ha fatto gli esperimenti. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Sì, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie mille. Bene, grazie. Signori, cotto e mangiato. Sì, cotto e mangiato, che schifo. Mamma mia. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop, DJ. Walk in. Don't stop. Make it pop, DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight to famiglia Papilionidae. La maggior parte delle farfalle di questa famiglia è grande, dai colori brillanti, e con due estensioni dei bordi delle ali posteriori simili a una coda. Per questo è nota anche con il nome di coda di rondine. Le larve di tutte le specie hanno sulla testa un organo biforcuto, lo smeterio, che emana un odore sgradevole per dissuadere i predatori. In alcune specie i bruchi si cibano di piante velenose per rendersi non commestibili anche da adulti. Basta, non è possibile. Dimmi Diego, che cosa vuoi? C'è un avvertimento da dare. Il gorilla dello scrotino. Le brillanti macchie sulle ali della... Diciamo che sia sempre il caso di bloccarlo. E di molti altri papilionidi. No, non lo so. Avvertono i predatori di fare. Abbiamo la pistola? No, la pistola abbiamo già usata, non si può più usare. La mazza l'ha rotta. La mazza l'hai rotta, andiamo con le armi bianche. Chiama il gorilla. Chiamiamo il gorilla, dai, chiamalo tu, dai. Gorilla, vieni, c'è uno scrotino per te. Sta arrivando, sì, lo sento. Loro principali predatori. Gli adulti si accettano. Madonna, che è sta cosa? Aiuto! Ce l'abbiamo fatta e anche questa volta il momento di Quark. Sì, dove si spara Quark e stronzata. Ma che sei ancora vivo te? Quark è al momento di Quark e se dice qualche cosa, no? Capito? Non hai capito questa, te l'ho fatta. Aprite sto giugiaro. Oh, ma che è? Approfittiamo quindi di questa situazione. Questa è dedicata alla Giugina. È una dedica allora questa. È la serata delle dediche, signori. È la serata delle dediche. La Giugina. Una storia che svanì. Di quei giorni che lasciano troppa sete. Come mai tu ritorni e sei ancora qui? E l'inverno sui rami già diventa estate. Sei con me, e chissà se ti ho perso mai, qui perché. Parlo d'amore, di un cielo che io abbandonai, di me, di te, di noi due indifesi. Mi accarezzi le mani, ma che cosa fai? Forse che tutto va, anche gli anni spesi. Sei qui con me, ti cercai, ti dimenticai. Ancora. Come allora, luce che purifichi i miei sogni, scendi piano dentro me, luce che rischiari apertamente, non lasciarmi da solo mai. Vita che trafigge così e ci porta con sé col suo passo lieve. Luce che purifichi i miei sogni. me, dentro me. Luce che una strada sola insegni. E questo era Mango con Luce, dedicata da Diego alla sua cicina. Come ha detto lui, io non voglio sapere questa canzone che cosa significa per voi due, perché sono ragazzo anch'io abbastanza sensibile. E allora io dico che voglio fare anch'io un regalino alla la tua cicina, dandogli un punto, un consiglio per quello che potrebbe essere il giardinaggio, visto il periodo, il momento che è appunto da primavera. Le printemps! Vai Diego! Sì. Voilà Diego! Non c'è niente di meglio di parlare delle piante aromatiche. È la stagione ideale per averne una piccolina, picciotta. Picciotto. Una collezione in balcone, come se non l'avessimo. Molto bella l'idea in privilegiare varietà insolite, trapiantandole una vicino all'altra in un bel mastello di legno. A mastella, te ne so a mastella, voi. Magari dipinte di verde, quali piantine a costare? No, no, verde no, che fa patania, non mi piace. Mica, non sei mica polentone. No, no, infatti ho detto non dipingerla di verde, perché altrimenti mi sembra la patana, che c'è tutti chi ti caga la lega. Ehi, vogliamo i terroni a qua, avete capito? Allora, per esempio, menta, cerfoglio, saliva, rosmarino, erba, cipollina, prezzemolo, marijuana, no, marijuana, due o tre piantine di basilico, in cui uno... ci stava pure quella, magari ci facevamo un po' di soldi, capito? O qualche papavero. Che? C'è un nuovo indiano, un nuovo business, ci mettiamo a spacciare o basilico. Basilico, venite pure proprio direttamente da me allora. Veniamo da te. Spaccio io della basilico. Veniamo da te, spacciamo un basilico. Prendiamo il rosmarino. Faccio anche salvia, l'erba cipollina. Tutti mi chiedono se tengo i papaveri per l'oppio. È ovvio che li tengo. No? Questa mi è piaciuta. Yakatan, Zakatan, a tra poco, amici. Radio Sonora 102.200. Esto es Trieste 60, el programa de la información divertida. Esta es Radio Sandoná, la frecuencia es 102.200. El número de teléfono es 042 5693. Potete ascoltarci in web radio e www.radiosandona.it. L'SMS, questo è SMS. SMS 34841 627 71 Facebook di FD Team 360 Imperoli. La faccia del libro, la faccia del libro, venite a trovarti sulla faccia del libro. E quando volete l'email potete scrivere in dfg360@yahoo.it. Questo è donde buscarne. E ora è venuto il momento di alta voce. Alta voce a tutti, todos el mundo. Cari amici del DFD, come di consueto, sempre di giovedì su Radio Sanonà, sempre ad alta voce, noi diciamo: un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci. Quando un giorno, vista l'ora, è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, sognare e per vivere. Buona giornata. Ancora, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Bene, è tutto anche per oggi, ora me ne vado fuori dai coglioni. Senza te, anche se incontrassi un angelo, non mi fai volare in alto quanto vuoi. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio. A quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, a te ti danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro. E va, chi va con la corrente va a cavare. Io so salmone, non mi importa niente, a me mi piace andare controcorrente.